English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Oggi parliamo di uno scrittore famosissimo che incontriamo nella nostra puntata di English 24, ma anche nel nostro mensile in edicola, Nicholas Sparks. Nato nel 65 in Nebraska, vive nel North Carolina con la moglie, 5 figli, è uno dei maggiori fenomeni editoriali al mondo con milioni di copie vendute, addirittura si parla di 60 milioni. Dai suoi titoli tradotti in 30 lingue sono stati tratti molti film celebri. L'ultimo è Come un uragano con Richard Gere e Diane Lane, un film di cui lui è contento. Sentiamo cosa ci ha raccontato. There's a lot of ways to evaluate a film if you're the author who's written a novel. Probably the major thing that you're interested in is whether or not the novel or the film has stayed very true to the novel. Did it capture most of the story? Were the characters represented accurately? Was it close to the movement that you outlined in the novel? And in that regard, I've been very fortunate with all my movies, and especially, well, not especially, but including this last one. It's essentially my story filmed, and the differences between the novel and the film are simply due to the differences in the mediums, so to speak. Allora Giulia, lui dice che ci sono molti modi per valutare un film. Che cosa giudica lui? Come giudica lui un film che è tratto dai suoi romanzi? Ecco, il problema è che lui è l'author of the novel, quindi è l'autore del novel, quindi non la novella, il romanzo da cui è tratto il film. E allora la cosa che dice come autore, the major thing you're interested in, notate come to be interested in, quindi l'in va alla fine, quindi la cosa in cui sei più interessato, noi lo mettiamo all'inizio, è whether or not the film has stayed true to the novel. Again, to be true to, oppure to stay true to, cioè essere fedele a, rispettare la verità di una cosa. Oppure diciamo che non è solo una questione di aderenza, c'è anche proprio semplicemente il fatto che i personaggi sono molto importanti e il film in un certo senso deve anche rendere lo spirito di questi ruoli. Quindi dice, la domanda che mi posso fare è appunto: did it capture most of the story? E vediamo come se il verbo usato è un verbo che non è il verbo essere, deve usare did, no? Quindi come si fa la domanda: did it capture, ha catturato? E se invece il verbo essere non si usa assolutamente due did, e si chiede lui: were the characters represented accurately? Characters, sappiamo, false friend, non carattere ma personaggio, sono stati rappresentati accuratamente nel film? E qui cosa è successo? Lui dice, I've been very fortunate. Fortunate è proprio fortunato, nel senso di fortuna positiva, quindi non alla latina, perciò nello stesso senso in cui lo usiamo noi. Poi si confonde un po' e dice, well, especially with this movie? E poi dice, well, not especially with this movie. Perché all'inizio, forse per fare un complimento al film che stava presentando, poi si è reso conto che tutti i film che sono stati tratti dai suoi libri meritano la sua attenzione, anche perché l'hanno reso ancora più famoso. E quindi dice, well, it's essentially true. Quindi alla fine, sì, questo film rispecchia il mio romanzo. Dopotutto si tratta di mezzi diversi, il film e il romanzo non possono essere esattamente coincidenti, lo riconosce anche lui. E qui è carino perché da qui si capisce che non tutti gli americani giustamente stanno in latino, perché lui dice the difference in the mediums, cioè fa il plurale di medium, che noi sappiamo, infatti li chiamiamo mass media venendo dal latino, plurale di un nome neutro è media, però invece lui fa il plurale all'americana, cioè ci aggiunge una bella S. Ma torniamo a questo film Come un uragano. Il film parla non del primo amore ma del secondo, cioè delle seconde possibilità che ci vengono date nella vita. E noi abbiamo chiesto a Nicholas Sparks se è così. Of course, you know, you can I think it's important to know that love is always love can find you when you least expect it, that even if you've been hurt you can find love again, that even if you feel down on yourself you can still fall in love. And that, most importantly, that love can always change you for the better. And I'm not only talking about romantic love. There was different kinds of love, for instance, portrayed in this film. Love in any form is the foundation of all of the wonderful things in life. Ma insomma, dà una speranza a tutti perché è molto romantico Nicholas Sparks, le sue scrittrici lo sanno bene. L'amore arriva in qualsiasi momento e infatti in questo romanzo, in questo film, arriva nel momento più inaspettato. Quindi dice alla fine la cosa più importante: love can find you when you least expect it. Least naturalmente è il comparativo di minoranza di less, quindi quando meno te lo aspetti in assoluto. Lo diciamo anche noi in italiano, quindi un'espressione più o meno uguale, e dice poi even if you've been hurt, e qui usa questa forma to have been, che dà l'idea, come sappiamo, di una cosa che è successa nel corso del tempo, quindi anche se sei una donna o un uomo che ha tante ferite d'amore, beh, credimi, you can find love again. Per può darsi che tu possa ritrovare l'amore, anzi lui lo dà per scontato. Lo dà per scontato, dopo tutto dà una speranza, lo dicevamo, Nicholas Sparks con questi suoi film e libri ultra romantici. Accade in questo come un uragano, l'amore ti cambia. Qui c'è un'altra espressione, secondo me molto bella, che è change you for the better, cioè ti può cambiare in meglio. Si può naturalmente dire anche change you for the worse, cioè ti cambia in peggio, ma in questo caso, sì, if you, when you fall in love, e che purtroppo in italiano non lo diciamo così, ma è bella, che poi è la stessa espressione che usano i francesi, il quando cadi in amore, quindi quando ti innamori. Cadi in amore, cambi al meglio, però non si parla solo di amore romantico, lui dice in questo libro e film. Sì, per questo è una cosa molto americana, nel senso che chiunque sia stato in America sa che usano questa parola love con molta disinvoltura, no? I love you, I love you, I love you, e si dice anche per salutarsi al telefono. Allora, per capire che il love, quello con la L maiuscola, cioè con la A maiuscola, quello romantico, allora lui specifica not only romantic love, quindi non soltanto appunto l'amore romantico tra un uomo e una donna, different kinds, for instance, of love portrayed in this film, e anche in this novel. Quindi ci sono tanti diversi tipi di amore, tutti ritratti, portrayed nei suoi romanzi. Tutti ritratti nei suoi romanzi e tutti che servono a qualcosa di fondamentale. Lo dice apparentemente molto convinto, e forse insomma ha ragione, che love in any form is the foundation for all the wonderful things in life. È foundation, non la fondazione, ma le fondamenta di tutte le cose stupende della vita. Tra l'altro, la cosa divertente è che poi foundation vuol dire anche fondotinta. Beh, insomma, è importante saperlo per chi vada a fare shopping in un paese anglofono. Noi stiamo trattando Nicholas Sparks anche con un po' di sorriso, perché effettivamente lui è un omaccione molto simpatico, molto tenero, e che conserva questa sua semplicità nonostante sia diventato davvero fantamiliardario e nonostante però sia spesso criticato appunto dai critici letterari, che lo accusano di fare letteratura di consumo, insomma lettura per signorine a volte anche un po' attempate. Ma lui cosa considera arte? Qual è il suo rapporto con l'arte? Art is of course in the eye of the beholder. Good literature is in the mind of the readers. In the end, the readers choose the classics. If you have a book that is wonderfully reviewed but no one reads it, it will never become a classic. If you have a book that many people read and it's wonderfully reviewed, it has a better shot of being a classic. And you can have a book that the critics hate, but it's read a lot, it too can become a classic. So art is something that people know it when they see it, they like it or they don't, and it is it's just the same holds true in literature. I've been fortunate in that the readers have liked what I've written, so in that regard it's good art. And the fact that many of them feel that they like it, I suppose that means it's good art. Ma insomma, un po' risponde ai critici con questa affermazione, perlomeno ci prova. Intanto usa un'espressione praticamente biblica, vorrei dire, per definire l'arte, con una sorta così di utilizza una metafora biblica. Sì, lui inizia con art is puntini puntini, perché naturalmente su cosa sia l'arte potremmo intavolare discussioni che potrebbero durare giorni e notti, e lui la fa un po' semplice forse e dice is of course, cioè naturalmente, quindi lui di questo è certo, in the eye of the beholder, come appunto dice la Bibbia, beauty is in the eye of the beholder, cioè la bellezza è nell'occhio di chi guarda. O non so, voi potremmo dire molto più prosaicamente Scarafaggina è bella mamma sua, insomma dipende appunto da chi guarda, considera, fa le sue considerazioni e considera arte quello che gli pare. Quindi la good literature, cioè la buona letteratura, è nella mente dei lettori. Lui fa questa comparazione. Tra l'altro lui fa questo esempio dei classici che possono essere benissimo recensiti ma poco amati. E quindi lui dice, e questa è arte oppure no? Altra discussione su cui si sono cimentati in tanti. Mi ricordo un libro di Calvino su cos'è un classico. Ecco, secondo lui sono i readers that choose the classic. Cioè è classico ciò che viene straletto sostanzialmente. E che cosa viene straletto? Non soltanto ciò che è wonderfully reviewed, ciò che viene fantasticamente recensito, perché review è appunto recensire, e poi anche ciò che viene letto molto, many people read. Allora in questo caso questi due elementi, se un libro è wonderfully reviewed and very read, it has a better shot of being a classic. To have a better shot è avere una chance migliore, shot letteralmente colpo, possibilità, quindi hai una possibilità in più. E poi lo dice ancora, people know it when they see it. Lui dice che la gente sa riconoscere l'arte quando la vede. Ovviamente tutti leggono lui, quindi insomma lui è arte. È un suo sottile sillogismo, ma davvero lui è veramente un bonaccione americano che dice alla fine sono stato molto fortunato e allora a questo punto sono anche un artista. E dice I've been very fortunate, again, l'aveva già detto anche prima. Readers have liked what I've written. Qui usa questa forma appunto, non semplicemente liked what I wrote, but have liked, quindi lungo un lungo periodo di tempo hanno continuato a piacere, hanno continuato ad apprezzare i suoi romanzi e lui ha continuato a scriverli, e quindi in that regard is good art, as simple as that. E quindi a questo proposito è arte quella che fa, anzi buona arte quella che fa lui. Insomma, con buona pace di tutti i critici, il lettissimo, il ricchissimo Nicholas Sparks, che con Come un uragano è nei cinema ultimamente italiani con questi splendidi Richard Gere e Diane Lane. Se vi piace il genere andatelo a vedere, se non vi piace il genere, ma forse no. Insomma, bisogna essere dei grandi fan di Nicholas Sparks, che abbiamo sentito in questa puntata di English 24, che però ritroveremo anche nel nostro English 24 cartaceo, al quale vi rimando per la lingua inglese, perché il nostro tempo radiofonico per questa settimana si conclude. Ringrazio Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola, Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.